Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente tutta l'attenzione dei mercati, delle borse e anche degli operatori è rivolta in questo momento al Wyoming, alla località montana di Jackson Hole, dove poco fa è intervenuta la numero uno della Federal Reserve, Janet Yellen, presidente della più importante banca centrale al mondo, appunto la Federal Reserve americana, e tra circa un'ora e mezzo, alle 18:30 ora italiana, interverrà anche Mario Draghi. Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, per la prima volta a Jackson Hole, che è un summit, un meeting dove si riuniscono i governatori delle banche centrali più importanti del pianeta, ma anche economisti politici. Quest'anno sono stati ridotti, o meglio esclusi in alcuni casi, molti banchieri d'affari di Wall Street, ma dicevo, l'attenzione era sia per l'intervento della Yellen che soprattutto per quello di Mario Draghi. Allora, la numero uno della Federal Reserve ha detto: attenzione, se i progressi dell'economia americana, l'economia americana è sostanzialmente 60 mesi che sta crescendo, se dicevo i progressi dell'economia americana saranno più rapidi del previsto, si potrebbe avere un aumento dei tassi di interesse prima delle attese, altrimenti in caso contrario, con una crescita più lenta, l'aumento dei tassi potrebbe essere dilazionato e arrivare anche dopo e più tardi delle attese. Ha confermato invece il presidente della Federal Reserve che in ottobre la Fed metterà fine al piano di acquisto di asset, quindi il modo in cui la banca centrale di fatto ha stampato moneta lungo tutti questi anni, e ha poi spiegato che il mercato del lavoro americano non si è ancora ripreso nonostante i progressi recenti, e la ricetta non è semplice. E poi toccherà a Mario Draghi. Ora, molti osservatori, ne parleremo più avanti, escludono che da un punto di vista ufficiale, formale, Draghi possa annunciare in un meeting, per quanto importante ma comunque informale, la decisione della Banca Centrale Europea di iniziare il cosiddetto quantitative easing, cioè l'acquisto di titoli, in questo caso soprattutto di Stato, ma non solo, dei vari paesi, e che è il meccanismo attraverso cui la Federal Reserve e altre banche centrali hanno stampato moneta. Molti di voi ci chiedono spesso come si fa a stampare moneta. Beh, la tecnica usata è quella di far emettere allo Stato titoli di Stato, appunto, e farli acquistare direttamente dalla banca centrale. In questo modo, acquistandoli, la banca centrale di fatto è come se stampasse moneta. Dicevo, molti osservatori sono scettici sul fatto che Mario Draghi possa annunciare in maniera netta oggi l'avvio del quantitative easing. Non sarebbe, si fa notare, la sede appropriata, ma le pressioni sulla BCE continuano a essere forti e molteplici. Oggi è la volta del Financial Times, il quale, devo dire che è qualche giorno che il Financial Times è molto prolifico in termini di critiche, accuse, allarmi all'Europa, all'Italia, alla Francia, poi nello specifico. Ma dicevo, oggi il Financial Times sottolinea come anche il premio Nobel dell'economia Joseph Stiglitz veda lo spettro per l'Europa di un decennio perso. Il decennio perso era il titolo, diciamo, che si usava per descrivere l'andamento dell'economia giapponese, che per oltre un decennio è rimasta intrappolata tra una bassa inflazione, tassi a zero e crescita inesistente. E allora il Financial Times dice: l'Europa si chiede, in realtà l'Europa sta andando nella stessa direzione del Giappone. L'unico modo per descrivere cosa sta accadendo in alcuni paesi europei è la depressione. Queste sono le parole del premio Nobel Stiglitz. Nonostante le speranze sul fatto che il peggio della crisi del debito sia alle spalle, l'economia dell'area euro, continua Stiglitz, resta più piccola di quanto non fosse prima del collasso di Lehman Brothers nel 2008, e il debito alto di molti paesi dell'area euro, e qui si può leggere anche Italia, l'inflazione bassa e la crescita bassa fanno aumentare i rischi. Ecco perché aumenta la pressione sulla BCE per un piano di acquisto di asset, di debito, anche se la BCE ha segnalato di non volere andare per seguire questa strada almeno fino alla fine dell'anno. La speranza è che le indicazioni di un possibile aumento dei tassi di interesse in Gran Bretagna e negli Stati Uniti possano da un lato indebolire l'euro. È chiaro che infatti noi assistiamo da qualche giorno a un euro non debole, perché sarebbe inesatto, ma ai livelli più bassi da quasi un anno, anche oggi è 1,32. Perché? Perché è chiaro che se i tassi di interesse americani dovessero risalire diventerebbe più appetibile comprare dollari e quindi l'euro si deprezzerebbe, e perché di fronte alle incertezze alcuni operatori iniziano a ragionare sul fatto che forse convenga avere in portafoglio la valuta dell'economia che cresce di più, cioè gli Stati Uniti, e non dell'area economica che cresce di meno e quindi l'area euro. Ecco, se vi fosse un sensibile calo dell'euro, questo potrebbe favorire ulteriormente le esportazioni europee e potrebbe migliorare la situazione del cosiddetto vecchio continente. Questa è una speranza, è una delle speranze su cui si poggia anche l'attesa della Banca Centrale Europea prima di iniziare un'operazione di acquisto di titoli di Stato. Questo, come capite, è uno dei due temi principali. L'altro tema riguarda il PIL italiano, o meglio il PIL europeo, perché viene ricalcolato su indicazioni europee. Perché ce ne occupiamo oggi? Perché già ce ne occupiamo quando uscì la notizia che il PIL avrebbe incamerato anche gli investimenti in ricerca e sviluppo e delle attività illegali calcolate secondo parametri statistici, quindi anche l'attività di spaccio di stupefacenti e la prostituzione. Però abbiamo letto in questi giorni, lo dico con massimo rispetto, ma insomma, tali e tante castronerie su questo PIL, tutte giocate in chiave politica. Ecco che il PIL dell'Italia crescerà grazie alla mafia e alla prostituzione. Ecco che tutte cavolate, perché è ovvio che se fosse così saremmo di fronte a una bestialità. In realtà, come cercheremo di spiegare con l'ex ministro al lavoro ed ex presidente dell'Istat Giovannini, è l'inserire queste variabili nel PIL italiano e dagli altri paesi porta però a rivedere anche tutti i PIL precedenti, quindi non è che improvvisamente ti ritrovi con un PIL del 2014 più alto rispetto al 2013 perché dentro consideri anche investimenti in ricerca, sviluppo e attività illecite. Vengono ricalcolati sulla base di questi parametri anche tutti i valori dei PIL degli anni precedenti, e quindi la variazione, a meno che non vi sia stato un boom quest'anno di investimenti in ricerca e sviluppo, di stupefacenti e di prostituzione, saranno invariati. Il ragionamento un po' diverso invece è nel rapporto deficit PIL e debito PIL, perché lì il valore nominale, cioè il numero complessivo, conta, non è un raffronto con l'anno prima. Però, come cercheremo di chiarire, vi sarà un ricalcolo complessivo del perimetro dell'attività della pubblica amministrazione. Però è bene fare chiarezza, perché sennò obiettivamente uno può immaginare che con i nuovi calcoli del PIL, paesi che vantano purtroppo una forte presenza, per esempio, della criminalità organizzata come l'Italia, possono trarne un vantaggio. Così non è, e sarebbe assurdo, diciamo, vedere un paese che cresce economicamente grazie alla criminalità organizzata. 349 238 6666 per i vostri SMS, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve, partendo dalla borsa. Borsa che cede un po' più di quanto non cedesse lungo tutta la giornata, 0,5 percentuale adesso il calo di Milano, l'1% quello di Parigi, lo 0,70 quello di Francoforte, lo 0,25 quello di Londra, -0,15 il calo americano. Allora, le parole della Yellen hanno forse contribuito, ma non in maniera drammatica, visto che prima la borsa, per esempio a Milano, perdeva lo 0,2, adesso perde lo 0,5, a Francoforte perdeva lo 0,5, adesso perde lo 0,9. I titoli, più 2,70% il Monte dei Paschi, più 2% Unipolsai, più 1,70 il Banco Popolare, più 1,20 la Pop Emilia Romagna e più 1% Gitec. Negativa Eni, -1,60, Prismian, ossia l'ex Pirelli Cavi, -1,30, come Buzzi Unicem, ed Enel, -1,30 anch'essa. Ferragamo perde l'1%, come Telecom Italia, oggi vertice importante in Sardegna tra presenti l'amministratore legato di Telecom Patuano, il presidente Recchi, e incontreranno il colosso francese, il vertice del colosso francese Vivendi a partire da Bolloré. lo abbiamo raccontato in questi giorni, non è tanto Francia o Spagna purché se magna, anche se può sembrare così, evocando diciamo gli scontri tra Carlo V e Francesco I. In realtà quello che sta capitando è che c'è una lotta in corso per aggiudicarsi un operatore di telefonia in Brasile. La lotta vede l'offerta da un lato da 7 miliardi di Telecom Italia, dall'altro invece l'offerta di Telefonica agli spagnoli da 4 miliardi. Peccato che gli spagnoli siano anche i principali azionisti di Telecom Italia stessa e si ritrovano nella simpatica posizione di avere come concorrenti la società da loro partecipata. Gli spagnoli hanno fatto sapere che usciranno da Telecom. L'offerta di Telecom Italia per la brasiliana GVT è in realtà prevede un cofinanziamento, chiamiamolo così, anche da parte dell'operatore francese Vivendi, che entrerebbe col 20% del capitale dentro Telecom Italia. E chiaramente questo è un ulteriore tassello per dire che gli spagnoli uscirebbero, quindi a questo punto entrerebbe Vivendi in concomitanza praticamente con l'uscita degli spagnoli. Ma oggi appunto il vertice si tiene in Sardegna, dove appunto sia Patuano che Recchi hanno raggiunto Bolloré. Il titolo come si muove? Debole, meno 1,13%. Ha invece recuperato terreno Luxottica, che perdeva anche oggi ma adesso cede un marginale 0,10%. Le agenzie fanno prenotare che da quando si è avuta conferma sostanzialmente che della frattura avvenuta tra Del Vecchio, fondatore proprietario di Luxottica, e Guerra, l'amministratore delegato di Luxottica stessa, il titolo ha perso circa il 6% del valore. Altre notizie di carattere internazionale. Il governo russo dovrà sostenere il suo settore agroalimentare con 13 miliardi di euro di fondi pubblici da qui al 2020 per compensare il divieto di importazione di prodotti del settore agroalimentare dall'Unione Europea, dall'Australia, dalla Norvegia, dal Canada. Questo, ricordate, è la conseguenza del braccio di ferro tra Mosca e l'Occidente sulla vicenda ucraina. Ieri raccontavamo anche degli aiuti per l'emergenza pesche decisi dall'Unione Europea, 33 milioni di euro. Questa mattina nel programma di Radio 24 Spunti di Vista il ministro dell'agricoltura Maurizio Martina ha fatto il punto sugli aiuti messi in campo dall'Unione Europea per le produzioni colpite dalle sanzioni, alcuni parlano di sanzioni in seguito ad altre sanzioni, comunque dalle sanzioni di Mosca. L'impatto c'è, non va sottovalutato, e noi abbiamo cercato immediatamente di reagire a questa situazione, intanto mobilitando una discussione di carattere europeo. Essendo noi presidenti di turno dell'Unione Europea, abbiamo immediatamente chiesto alla Commissione di iniziare a lavorare sul caso. Ne abbiamo parlato lungamente nei giorni scorsi con i commissari europei, in particolare col commissario all'agricoltura Dacian Ciolos. Abbiamo iniziato a fare in modo che l'Unione Europea aprisse alcuni spazi di novità. Tenga conto che noi già stavamo discutendo con l'Europa di alcune crisi specifiche di alcuni settori, ad esempio ortofrutticoli, mi viene in mente innanzitutto il settore delle pesche nettarine. Questa vicenda russa ovviamente ha aggravato ulteriormente la situazione. Devo dire che alcuni spazi di novità si sono aperti, adesso vanno perfezionati sia nella quantità di risorse a disposizione che nella qualità degli strumenti che verranno messi a disposizione. Proprio oggi a Bruxelles ci sarà una riunione molto importante che dovrebbe definire il set di interventi a sostegno del settore delle pesche e nettarine. Noi siamo molto esposti ovviamente perché siamo grandi produttori. L'Unione Europea ha stanziato solo per questo circa 33 milioni di euro. Ci sarà una prima risposta che aiuterà il ritiro di una parte importante delle quantità oggi in giacenza. Poi dobbiamo lavorare a perfezionare, a migliorare questi interventi sul versante, diciamo, del problema russo. Mi è chiaro che 125 milioni sono pochi, non possono essere di certo la cifra esaustiva di questo intervento. Abbiamo chiesto al Commissario e all'Unione Europea di allargare ovviamente il budget, lo si farà, mi auguro, anche nelle riunioni di perfezionamento che ci saranno settimana prossima, e poi soprattutto noi abbiamo convocato per il 5 di settembre una riunione straordinaria dei ministri dell'agricoltura europei proprio per fare il punto su tutti questi interventi. Così appunto il ministro all'agricoltura Martina. Restiamo in Italia perché ci sono ancora polemiche, devo dire che a me sembrano polemiche ormai speciose. Ieri poi lo facciamo magari risentire, il vice ministro dell'economia Morando ai nostri microfoni aveva chiarito che non esisterà alcun intervento sulle pensioni, che le priorità sono altre. Oggi il premier Matteo Renzi, escludendo sia i interventi sulle pensioni o il blocco degli stipendi pubblici, sia nuove tasse, ha risposto, diciamo, nello stile che possiamo definire renziano alle minacce dei sindacati, che avevano detto se il governo si muoverà in quella linea sarà un autunno caldo. Ci saranno nuove tasse tornando? No. Anzi, come abbiamo fatto con gli 80 euro, che sono 1000 euro l'anno di riduzione di tasse a 11 milioni di lavoratori, questo è, noi abbiamo ridotto le tasse per 1000 euro più o meno a testa a 11 milioni di persone. Così come abbiamo fatto con questa fascia di popolazione, cercheremo di farla con altre fasce di popolazione, di ridurre ulteriormente le tasse. Per farlo però bisogna dare un po' di sforbiciata alla spesa. In Italia sono 800 miliardi i denari che noi spendiamo. E come tutte le famiglie potremmo stare un po' più attenti. La famiglia a casa spenge la luce o rinuncia a una serata fuori, beh, allo stesso modo anche il pubblico dovrebbe stare un pochino più attento e gestire meglio i denari. Ma questo non significa che ci saranno più tasse, anzi. E chi oggi parla di manovre, di pensioni, beh, insomma, parla di cose che non sono all'ordine del giorno. Se poi i sindacati hanno voglia di avere un autunno caldo, facciano pure. Già l'estate non è stata granché. Se finalmente in autunno c'è un po' più di caldo, siamo tutti più contenti. Quindi, esclusa ogni manovra che porti nuove tasse o interventi sulle pensioni o il blocco degli stipendi pubblici, faccio notare che il premier Renzi parla di 800 miliardi, ci mancherebbe, quella la cifra, 800 miliardi di spesa pubblica. Faccio notare però che di questi 800, 400 sono pagamenti di pensioni e stipendi, per cui la parte su cui si può in realtà intervenire, se appunto non si vogliono toccare le pensioni o il blocco degli stipendi pubblici, è il resto, che non è poco, perché ci sono circa 130 miliardi di spesa per beni intermedi, quindi l'approvvigionamento della pubblica amministrazione, ovvero basterebbe risparmiare, lo dico con una battuta, il 10% su come acquisti fotocopiatrici, la cancelleria e altri beni intermedi, e quindi passare a un risparmio di 13 miliardi per aver fatto buona parte della spending review di Cottarelli, visto che il governo si attende 17 miliardi nel 2015. E su questo invece il ragionamento ha più senso, perché insomma qualunque, ma non qualunque famiglia, qualunque privato, azienda, società, impresa, sa che se ti si chiede di risparmiare il 10% da qualche parte si deve trovare, senza far venire meno la produttività, magari anche incrementandola, e l'efficienza e il prodotto stesso. Comunque, dicevo, che visto che continuo a ricevere messaggi in questi giorni che non vi sarà nessuna manovra sulle pensioni, facciamo risentire il vice ministro Enrico Morando, per favore, di ieri, che l'ha detto in maniera netta e chiara, per cui la polemica o il dibattito suscitato da un'intervista del ministro Poletti mi sembra per ora chiuso. La mia opinione è che in questa fase andare attorno al tema delle pensioni sia un errore serio che non faremo, perché ci distrae dagli obiettivi fondamentali. La riforma della previdenza pubblica è l'unica riforma strutturale che in questo paese è stata a più riprese dal 95 in poi realizzata, arrivando poi col provvedimento Fornero al suo compimento col contributivo prorata temporis applicato a tutti gli iscritti alla previdenza pubblica. Quindi la mia opinione è che di questo tema in questa fase non se ne parlerà. We'll be right back. visto che però parliamo di pensioni di lavoro, oggi il Ministero del Lavoro ha comunicato che hanno superato i 160.000 iscritti, i giovani, sono per la precisione 162.000, i giovani che al 21 agosto si sono iscritti al progetto Garanzia Giovani. Attenzione, è un progetto molto importante, invitiamo tutti i giovani che chiaramente hanno intenzione di svivere un'esperienza appunto di tirocinio e orientamento a iscriversi, e anche le imprese a iscriversi in maniera un po' più massiccia. Comunque 33.600 giovani sono già stati convocati dai servizi per il lavoro e 21.000 hanno già ricevuto il primo colloquio di orientamento, 8.700 le occasioni di lavoro, per un totale di posti disponibili pari a 12.600. Ora, visto che l'iniziativa è partita da 2 mesi e mezzo, vado a memoria, mi sembra un discreto successo, che sicuramente non cambierà l'andamento della disoccupazione giovanile a record storico, ma insomma, meglio che niente avere 8.800 occasioni di lavoro. E ripeto, i giovani si stanno iscrivendo, invito anche tutte le imprese che poi si lamentano quando non riescono a fare l'incontro da domanda e offerta a utilizzare questo strumento che, per quello che vediamo, sta dando i suoi frutti. Ma visto che parliamo di pensioni, mi tocca tornare sulla corsa dei non solo dei dipendenti dell'Assemblea regionale siciliana, degli ex consiglieri della Regione Lombardia, giunta precedente, la corsa andare in pensione a 53 anni, se sei in Sicilia, 55 se sei in Lombardia e quant'altro. Oggi è la volta anche del Lazio, perché bastano 55 anni per avere il vitalizio, nel senso che a quell'età un ex consigliere regionale del Lazio con pochi anni di attività politica può già accedere all'assegno vitalizio. Se poi si è stati consiglieri per almeno 5 anni, la soglia scende ancora a 50 anni. L'emendamento fu votato nel 2012 in maniera bipartisan, perché quando si vuole l'intesa si trova, e ha abolito la norma del governo Monti che richiedeva almeno 66 anni come età e 10 anni di mandato. Per i consiglieri attualmente in carica il trattamento è stato abolito, ma il provvedimento non vale per il passato, quindi la giunta Polverini, che tanto si distinse nella buona amministrazione della cosa pubblica e dei denari dei cittadini. E infatti la platea degli ex si allarga di giorno in giorno, la spesa per i trattamenti è salita, pensate, a 20 milioni di euro l'anno. E ieri ha compiuto 50 anni l'ex consigliere Roberto Buonasorte, gli facciamo tanti auguri di buon compleanno, però un bel compleanno, perché per lui scatta l'assegno. E i fortunati sono già 271 nella regione Lazio come vitalizi e saliranno a 314 nel 2016. Gli assegni più bassi sfiorano i 3.000 euro, ma oltre un terzo dei beneficiari percepisce tra i 5.000 e i 6.000 euro al mese. Poi qualcuno dice, ah, ma siete populisti, ma si può capire perché uno che fa 3 anni come consigliere comunale, o anche se ne facesse 5, deve avere un vitalizio? Non si capisce, deve avere uno stipendio, un rimborso spese, le spese per la sua attività, per carità, ma il vitalizio perché? Poi 20 milioni di euro l'anno, e la cifra è abbastanza simile anche in Regione Lombardia, non parliamo della Sicilia. Attenzione, su questo sono soldi per una regione, magari potevano essere utilizzati per qualcos'altro, lo so che è una battaglia persa, però a noi piacciono anche le battaglie che si vincono, ma anche quelle che si perdono, l'importante è farle. Allora, veniamo al nuovo PIL. Nelle prossime settimane l'Istat elaborerà le nuove stime, comprenderanno, come avete letto su molti giornali, le uscite, come pure, anziché gli investimenti, le spese militari, oltre che il conteggio dell'economia illegale, stupefacenti, contrabbando e prostituzione, e comprenderanno soprattutto gli investimenti in ricerca e sviluppo. Il ricalcolo, vediamo di capire che effetti porterà, ma è alla base anche dello slittamento della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, che è slittato al 1 ottobre, perché vuole attendere il Ministero i risultati del ricalcolo. Professor Giovannini, ex presidente dell'Istat ed ex ministro del lavoro del governo Letta, buonasera. Buonasera. Allora, prima domanda, così chiariamo. Il fatto che inseriremo voci nobili come ricerca e sviluppo, gli investimenti in ricerca e sviluppo, che fino adesso erano considerate come uscite invece che come investimenti. E inseriremo anche spese militari, il traffico di stupefacenti, il contrabbando e la prostituzione. Porterà un vantaggio significativo, o meglio, una crescita significativa del PIL rispetto agli anni precedenti? La risposta è no, perché questa revisione, che è stata decisa vari anni fa, quindi non si può minimamente mettere in relazione la congiuntura politica di questo o di quel paese, farà sì che l'Istat, così come gli istituti di statistica anche degli altri paesi europei, rivedranno tutta la serie storica del PIL. Quindi il PIL si abbasserà o si alzerà più probabilmente del 2%, 1-2%, quello che sarà, ma i tassi di crescita, di variazione o di riduzione, come purtroppo stiamo sperimentando in Italia, del PIL non saranno sostanzialmente cambiati. Quindi il giudizio sulla performance negativa dell'economia italiana negli ultimi 6-7 anni purtroppo resterà assolutamente invariato. Quindi ricalcolando, incamerando queste nuove variabili, tutti i PIL degli anni precedenti, è ovvio che la differenza sarà nulla, a meno che uno non possa immaginare che quest'anno vi sia stato un aumento nel consumo di stupefacenti o negli investimenti in ricerca e sviluppo. Ecco, purtroppo sappiamo che in questi anni di crisi gli investimenti in ricerca e sviluppo sono stati tagliati sia dal settore pubblico che dal settore privato, mentre altri paesi hanno cercato di rispondere alla crisi proprio aumentando questi investimenti. Quindi è presumibile che la distanza tra l'Italia e i paesi nordici, ad esempio, aumenterà ulteriormente. Ecco, dopo le informazioni meteo, vorrei capire invece un altro aspetto, perché questo è che non cambi nulla nel raffronto, penso che sia abbastanza chiaro a questo punto. Vengono ricalcolati tutti i valori dei PIL precedenti, non solo quello del 2014. Però uno potrebbe dire, potrebbe cambiare qualcosa nel rapporto deficit-PIL e nel rapporto debito-PIL, quello che è così fondamentale per l'Europa e per i parametri di Maastricht, perché lì sì il numero totale, cioè voglio dire il nostro PIL ricalcolato con il nuovo, diciamo, con il nuovo dato, il nostro PIL l'anno scorso valeva 1560 miliardi di euro, ricalcolato, mettiamo che valga 1000, non lo so, sparo una cifra a casa, 600 miliardi, 40 miliardi in più, quella cifra nominale è il denominatore del rapporto deficit-PIL, quindi potrebbe cambiare in senso favorevole all'Italia. Professor Giovannini, visto che l'ha fatto per anni il presidente dell'Istat, oltre che il ministro del lavoro del governo Letta, abbiamo capito che questo nuovo PIL non cambierà il raffronto con gli anni precedenti, però visto che aumenterà presumibilmente il valore nominale, diciamo, del PIL, il calcolo di stupefacenti, prostituzione, contrabbando e quant'altro, potrebbe cambiare il rapporto deficit-PIL e il rapporto debito-PIL? Potrebbe cambiare se di poco, se il numeratore non cambiasse, se cioè il deficit e il debito restassero invariati. Ora, sappiamo che con queste nuove regole europee ci sarà presumibilmente un allargamento del numero di imprese o di istituzioni che verranno classificate come parte della pubblica amministrazione. Le faccio un esempio: alcune società partecipate, di cui si parla molto, gli enti locali, probabilmente oggi non sono incluse nella pubblica amministrazione, domani lo saranno. Se queste società, se queste istituzioni sono in deficit o hanno un debito, questi valori si sommeranno a quelli delle amministrazioni già presenti. Quindi potrebbe darsi che anche il deficit e il PIL, il deficit e il debito salgano leggermente. In ogni caso, se anche il PIL cambiasse, diciamo, del 2% verso l'alto, l'effetto sul rapporto deficit-PIL sarebbe intorno a 0,1, quindi molto molto limitato, mentre il rapporto debito-PIL scenderebbe di circa il 2%, ma non ci direbbe nulla in termini di cambiamento sulla tendenza verso il 60%, che è quello che prevede il fiscal compact. Oddio, lo 0,1, cioè che se fai invece che 3,1 fai 3 con questa Europa ragionieristica, forse con buona pace, senza offese per i ragionieri, potrebbe anche essere qualcosa, ma abbiamo capito, insomma, che da lì non arriverà nulla se non un ricalcolo statistico, se ben capisco, con l'obiettivo di avere un PIL che rispecchi sempre di più quella che è l'economia reale di un paese. E vorrei concludere su questo tema, visto che ce l'ho visto che ho lei ospite, perché lei fece parte, se non ricordo male, della definizione del BES, cioè l'indice che misura il benessere equo e sostenibile. E ci fu anche tutto quel gruppo di lavoro organizzato dall'allora presidente francese Sarkozy per trovare un nuovo indicatore del PIL. E qui viene alla mente il famoso intervento di Robert Kennedy. Era il 18 marzo del 68, venne assassinato il 6 giugno del 68, in piena campagna presidenziale, fece un celeberrimo discorso all'Università del Kansas in cui parlò del PNL, il prodotto nazionale lordo, e della felicità. Fu la prima volta che qualcuno ebbe coraggio di contestare il PIL come indicatore del benessere di un paese. Too much and for too long. Con troppa insistenza e troppo a lungo, sembra che abbiamo rinunciato alla nostra eccellenza personale e ai valori della nostra comunità in favore del mero accumulo di beni terreni. Il nostro prodotto interno lordo ha superato gli 800 miliardi di dollari l'anno, ma quel PIL, se giudichiamo gli Stati Uniti in base a questo, comprende l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle sigarette e le ambulanze per sgomberare le strade dalle carneficine. Comprende serrature speciali per le nostre porte di casa e prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende l'abbattimento delle sequoie e la scomparsa delle nostre bellezze naturali nel caos della deregolamentazione urbanistica. Tiene conto della produzione di napalm e delle testate nucleari e delle auto blindate della polizia per fronteggiare le rivolte urbane. Comprende il fucile di Weedham e il coltello di Speck e i programmi TV che esaltano la violenza al fine di vendere giocattoli ai nostri bambini. Eppure il PIL non tiene conto della salute dei nostri ragazzi, la qualità della loro educazione e l'allegria dei loro giochi. Non include la bellezza delle nostre poesie e la solidità dei nostri matrimoni, l'acume dei nostri dibattiti politici, l'integrità dei nostri funzionari pubblici. Non misura né il nostro ingegno, né il nostro coraggio, né la nostra conoscenza, né la nostra passione, né la fedeltà alla nostra patria. In altre parole, misura tutto eccetto ciò che rende la vita degna di essere vissuta. Ci dice tutto sull'America, eccetto il motivo per cui siamo orgogliosi di essere americani. Beh, bellissimo, quantomeno dal punto di vista retorica, soprattutto gli ultimi due passaggi. Ogni tanto lo facciamo sentire, il PIL misura tutto tranne i motivi per cui la vita vale la pena di essere vissuta e per cui uno può essere orgoglioso di essere americano. Giovannini, questo discorso è del 1968, mi sembra che fosse sicuramente lungimirante, ma che sia cambiato pochissimo. Cioè nessuno, né voi né altri, è riuscito a trovare un indicatore migliore del PIL per capire come si muove un'economia. Non è vero, nel senso che ormai tra qualche settimana si celebreranno i 10 anni dal primo forum mondiale che io organizzai proprio in Italia quando ero all'Ocse e che ha dato appunto origine a un movimento mondiale di cui ormai tutti parlano. In realtà sono stati identificati molti altri strumenti attraverso i quali valutare il progresso di un paese, per prendere in considerazione l'ambiente, gli aspetti sociali e così via. Ma è evidente che i mercati finanziari e direi i media stanno continuando a dare una grande attenzione a un dato che racconta solo una parte della storia. È la stessa cosa che succede quando un'impresa fa una trimestrale sui risultati e i titoli di borsa schizzano, crollano, quando invece è la solidità di lungo termine che bisognerebbe vedere. Ecco, noi abbiamo in questi 10 anni lavorato in Francia, in Canada, in Bhutan, in tutti i paesi del mondo. Il Bhutan è il primo paese, non è importantissimo come paese, però il Bhutan è il primo paese al mondo che ha abbandonato il PIL per un indice di felicità. Di esattamente vero, hanno sviluppato un indice di felicità e nel comitato scientifico di cui ho fatto parte l'anno scorso, nel 2013, per dare un input alle Nazioni Unite, siamo riusciti a riconciliare questo concetto di felicità con il concetto di benessere equo e sostenibile che abbiamo sviluppato quando ero all'Istat. Ora il punto è il seguente: l'anno prossimo le Nazioni Unite fisseranno i nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile per tutto il mondo e bisognerà avere indicatori per misurare quei fenomeni anche nei paesi in via di sviluppo, oltre che nei paesi sviluppati. Siamo cioè alle soglie di una rivoluzione dei dati, così si dice, da seguire attentamente, proprio perché finalmente speriamo che non solo i politici, ma anche i media, le imprese e la società nel suo complesso cominci a guardare molto di più altri indicatori. Uno dei problemi di questi altri indicatori è che non sono disponibili trimestralmente o con la stessa rapidità cui sono disponibili. Mi permetto una battuta, Giovannini, per concludere. Allora, se quella del Bhutan non è una butanata, però molti ascoltatori ci fanno notare che sono pochi i paesi in cui il PIL cala bruscamente e la felicità aumenta, per cui qualche correlazione ci deve essere, perché sono tutte le volte che ne abbiamo visto PIL stagnanti, PIL in calo, e purtroppo le abbiamo viste in questi 5 anni, non è che l'indice di felicità inteso anche come persone che lavorano, crescita professionale, disoccupazione, potere d'acquisto sia migliorato. Proprio questo è la sintesi di cui le parlavo, cioè nella misura del benessere che abbiamo sviluppato in Italia, ad esempio, abbiamo anche le componenti reddituali, le componenti dell'occupazione, la salute. Pensi che negli ultimi 2 anni molte famiglie, a causa della crisi, hanno smesso di fare gli screening preventivi, e questo avrà un effetto sulla salute nel futuro, e così via. Quindi è evidente che la componente economica è fondamentale. È altrettanto evidente, e c'è un bellissimo grafico, purtroppo non si può presentare in radio, di un rapporto della Commissione europea che fa vedere come negli ultimi anni il PIL in Europa abbia avuto grosse fluttuazioni, mentre il reddito disponibile delle famiglie, corretto per i servizi che le famiglie ricevono dallo Stato, dai privati, è molto più stabile, e questo è naturale perché ci sono gli stabilizzatori automatici che naturalmente riducono l'effetto della recessione sulle famiglie. Ma, e questo è un dato negativo, mentre il PIL sta riprendendo in molti paesi, il reddito disponibile delle famiglie no. Perché vuol dire che quella maggiore ricchezza sta andando, per esempio, a multinazionali che hanno sede all'estero e così via. Quindi abbiamo già dei dati, come quello trimestrale, sul reddito disponibile delle famiglie, a cui spero i media daranno sempre più attenzione e non guardando solo il PIL. Mi dica un'ultima cosa, visto che adesso poi ci spostiamo a Jackson Hole per l'intervento della Yellen e tra poche ore, un'ora circa, di Mario Draghi. Ieri Angela Merkel, la cancelliera tedesca, è intervenuta in una specie di, appunto, forum di economisti, ha detto, insomma, ci siamo fidati evidentemente di previsioni e di modelli economici ed econometrici sbagliati. Lì non si è capito se volesse fare anche un po' di autocritica sulla linea del rigore intrapresa in questi anni o volesse fare solo un po' di amuinna, come dicono a Napoli. C'è un po' di confusione, di fumo negli occhi, però... Secondo lei, tra questi modelli sbagliati e questa ossessione, diciamo, su PIL come se fosse indicatore di felicità e di benessere di un paese, cioè il ragionamento della Merkel andava anche a questo o lei l'ha letto semplicemente come una voglia così di creare un po' di polemica ma nulla più? No, la Merkel ha fatto riferimento anche a indicatori che vanno sviluppati per tener conto di altri fattori, proprio andando oltre il PIL. Io tra l'altro a metà settembre sarò proprio al convegno internazionale a Berlino degli studi sulla qualità della vita, e gli uffici della cancelliera hanno chiesto di fare una riunione proprio su questo tema, proprio perché c'è un interesse. Detto questo, però, è verissimo che negli anni d'oro non si è guardato agli indicatori, diciamo così, di rischio, di vulnerabilità sia finanziaria che di molte imprese che delle famiglie. In questo senso l'ultimo rapporto dell'ONU invita tutti quanti a riformare i propri sistemi anche di welfare usando questo concetto che in Italia si usa poco, che è il concetto della resilienza, cioè la capacità di reagire alla crisi. Ecco, noi abbiamo bisogno di cambiare le nostre politiche sociali ed economiche per aiutare le imprese e le famiglie a reagire di fronte a crisi che purtroppo arriveranno, non si può immaginare che le crisi siano finite. Abbiamo bisogno quindi di un'impostazione diversa in cui il rischio viene considerato molto più anche nelle politiche, e dunque le politiche vengono orientate a ammortizzare il rischio che appunto le crisi porteranno. Questo è un cambiamento importante che sta avvenendo. L'ultimo rapporto dell'ONU di qualche settimana fa invita proprio a mettere queste due parole, vulnerabilità delle persone e delle imprese e resilienza, al centro delle politiche. Mario Platero in collegamento con noi dagli Stati Uniti, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, di Draghi possiamo solo immaginare e magari facci tu delle ipotesi, ma della Yellen invece abbiamo qualche notizia certa, perché le agenzie hanno battuto i passaggi principali del suo intervento, della numero uno della Federal Reserve. E se l'economia americana continuerà i progressi anche sul mercato del lavoro, potremo aumentare i tassi prima delle attese, se invece saranno più lenti potremo aumentarli addirittura dopo le attese. A ottobre finirà il piano di riacquisto degli asset e comunque quindi il quantitative easing, per come abbiamo conosciuto, e comunque il mercato del lavoro non si è ripreso come avremmo voluto, non c'è una ricetta semplice. A te il commento, ti lascio la parola anche sull'analisi di quello che potrebbe dire Mario Draghi tra meno di un'ora. Beh, Sebastiano, guarda, lo hai sintetizzato tu nell'ultima osservazione che hai riferito ai nostri ascoltatori, e cioè che il mercato del lavoro non migliora. Non migliora dal punto di vista strettamente tecnico, perché poi in realtà abbiamo visto che sono stati milioni di nuovi occupati, 200.000 occupati al mese e così via e così via. Però nel qualificare la scelta politica della Federal Reserve, la Yellen in questo convegno di Jackson Hole, che è un convegno molto importante nel Wyoming, è un convegno che si tiene ogni anno, dove intervengono importanti banchieri centrali ed economisti internazionali, e quest'anno, come tu stesso hai anticipato, interverrà lo stesso Mario Draghi. Ecco, a Wyoming, ti dicevo, c'è sempre un tema di fondo di cui si discute, e quest'anno il tema di fondo è l'occupazione. La Yellen nel suo discorso ne ha approfittato per spiegare che dal punto di vista della Federal Reserve gli elementi determinanti per capire se l'occupazione sta andando bene o male non saranno più il semplice tasso di disoccupazione o la creazione di nuovi posti di lavoro, perché, ha detto la Yellen nel suo discorso, il quadro del lavoro oggi è molto più complesso e di difficile interpretazione. E ci rendiamo conto che la cinghia di trasmissione che avrebbe dovuto produrre nuovi redditi che si dovevano poi trasferire sui consumi in realtà non gira come girava in passato. Quali sono gli elementi nuovi, ha detto la Yellen, che terremo presente in una sorta di grande equazione? Beh, per esempio la partecipazione degli americani alla forza lavoro. La partecipazione americana alla forza lavoro è diminuita e purtroppo è continuato a diminuire, quel serbatoio di occupati, diciamo quel serbatoio di popolazione teorica che dovrebbe poter lavorare, è diminuito. Gli americani non cercano più lavoro, non sono iscritti alle liste di collocamento e quindi i numeri saltano. Un altro elemento importante è il salario minimo. Se il salario minimo invece di aumentare diminuisce, o comunque se i salari in genere invece di aumentare diminuiscono, ecco che maggiori posti di lavoro non necessariamente si traducono in aumenti del reddito. Mario, ho capito, quindi dice, le incertezze che citava la Yellen restano tutte sul mercato del lavoro americano. In una battuta, cioè massimo 30 secondi, secondo te Draghi annuncerà da Jackson Hole l'avvio invece del quantitative easing, dello stampaggio di moneta, dell'acquisto di titoli di Stato in Europa, sì o no? Ma guarda, mi sembrerebbe strano, dovrebbe fare un annuncio di questo genere, lo dovrebbe fare a Francoforte, non a Jackson Hole. Sarebbe come dire che gli americani avevano avuto ragione e l'Europa torto. Credo che si terrà anche lui sul tema dell'occupazione e sicuramente enuncerà il principio che la Banca Centrale Europea e l'Europa sono favorevoli a un rilancio della crescita economica. Non credo che si spingerà oltre, forse dovremmo aspettare ancora. Grazie a Mario Platero in collegamento con noi dagli Stati Uniti. Un ringraziamento come sempre venerdì a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di un buon fine settimana, soprattutto a chi lo passerà lavorando. Focus Economia torna lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente. Focus Economia.